attenuare il dolore è per non pensare che ci comportiamo come abbiamo visto fare e senza sapere se è giusto stare insieme o se è per paura di morire soli. E tu che sognavi un amore da manuale, ma il libretto di istruzioni te l'ha mangiato il cane. Che volevi un uomo da montare come Lego, io invece mi smonto e non mi ricollego. Ci lasciamo stanotte tra i tuoi no e i miei forse, a scambiarci le colpe per colmare due esistenze vuote. E per attenuare il dolore ci ritroviamo insieme, facciamo figli per sentirci bene. Egoismo per grandi, per sentirci importanti, forse meritiamo di morire soli. E io che per colpa mia continuo a stare male, senza niente di reale che mi faccia stare male. E sommo tentativi di montarmi come Lego, ma mancano i pezzi per formare un uomo intero. Ci lasciamo stanotte tra i miei no e i tuoi forse, a scambiarci le colpe per colmare due esistenze vuote. Sono solo stanotte, occhi spenti, ossa rotte, torno a scrivere strofe a 30 anni in camerette vuote.